Noi siamo tutti convinti, tutti, che non si può aumentare il disavanzo pubblico. Dunque il Governo non scaricherà sulle generazioni future il costo della crisi economica internazionale e non farà pagare ai nostri figli le difficoltà del presente. Non lo faremo in nessun caso e per nessun motivo. La riforma fiscale non produrrà buchi di bilancio, ma darà vita a un sistema più equo e più benevolo verso chi è in condizioni disagiate. Un sistema che premia chi produce, chi investe, chi risparmia, chi dichiara il giusto. Un sistema più semplice che spazzerà via norme incomprensibili, adempimenti inutili e privilegi corporativi. Il Governo dunque presenterà al Parlamento, prima della pausa estiva, la delega per riformare il sistema fiscale. Il Paese ha bisogno di una nuova politica fiscale, non soltanto ai fini della crescita economica, ma anche per stabilire un rapporto diverso tra lo Stato e i cittadini. Lo Stato deve fornire dei servizi ai cittadini e alle imprese che è giusto vengano pagati. Ma i cittadini devono sentire che ciò che lo Stato chiede loro non è sproporzionato, non è eccessivo rispetto a ciò che dallo Stato ricevono. Come già anticipato dal ministro Tremonti, ridisegneremo l'impianto delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni. Vi saranno meno aliquote, solo 3 invece delle 5 attuali, e più basse. Un sistema di detrazioni e deduzioni più snello e trasparente, in coerenza con gli obiettivi generali della riforma. Una riduzione a 5 del numero delle imposte.